Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 13. Tripoli, bel suol d'amore. Dio e il suo assistente l'Arcangelo non ebbero problemi a procurarsi un aereo personale. Bastò che Ocelot si togliesse sciarpa, occhiali e cappello che tutto l'aeroporto cadde in ginocchio come un solo uomo. Individuata la sala piloti e adocchiati un paio di individui con divisa e mostrine, si fecero accompagnare la zona riservata ai passeggeri istituzionali. C'erano numerosi aerei di Stato con le insegne nazionali. Mirko propose di riempirne uno di ballerine e casse di birra, ma Drago pragmaticamente volle invece prendere un jet più piccolo e rapido. «Avremo tempo per le nostre baldorie, socio», affermò Ocelot. «Qui, a forza di aspettare, divento vecchio, va bene, dai. Cos'hai in mente? Sentiamo, dove andiamo di bello?» Drago lo guardò con compassione. «Di bello? Temo che rimarrai deluso. Dobbiamo vedere cosa è successo nei posti più arretrati. Pensavo di iniziare dai nostri vicini. Pensavo all'Africa.» Tacque e fissò l'amico con finta aria colpevole. «L'Africa, già. L'Africa», mormorò Mirko fra sé e sé. Non era un bravo dissimulatore. La delusione e l'insoddisfazione trasparivano da ogni suo movimento e parola. «Ascolta, Drago, capisco quello che intendi, ma cazzo, fra i selvaggi, insomma, sei sicuro che sia una buona idea?» «Tu non capisci. Se non mi rendo conto di come stanno le cose, come farò a governarle? Non possiamo restare prigionieri del nostro piccolo mondo, o il grande mondo ci mangerà in un colpo solo. Lo capisci che ora non siamo più alla resi? Quella vita è finita. Dobbiamo evolvere o morire.» Riviera si rese improvvisamente conto della verità di quello che diceva il suo socio. Capì che l'amico era andato molto più avanti di lui e di non avere altra scelta che seguirlo e dargli fiducia. «Va bene. Come al solito sei tu quello con le idee chiare. Però ascolta, l'Africa è enorme, gigantesca, ed è solo uno dei continenti. Come faremo a girarla tutta? Quanto tempo ci vorrà? Non so tu, ma io non vorrei passare la vita facendo il missionario.» «Non fare il cazzone. Basterà dare un'occhiata lì dove c'è più gente, nelle grandi città. Non è che dobbiamo girare villaggio per villaggio. Basterà capire il quadro generale. Dobbiamo farci un'idea. E poi, che cazzo, non ti va di viaggiare in jet? Guarda quel gioiellino, sembra che aspetti solo noi per partire.» Contemplarono entrambi Loker 4000 parcheggiato sulla pista. Il profilo argentato delle ali rifletteva le luci blu del piazzale di sosta. Brillavano scintillanti e invoglianti. Riviera si scosse. «Ma che cazzo mi prende, hai ragione, andiamo, non facciamo aspettare questa meraviglia.» Il mondo iniziava a essere più piccolo. Drago non lo avrebbe mai confessato, neppure a Mirko, ma era piuttosto preoccupato. Stavano per entrare in un altro mondo, un continente che non aveva niente a che fare con la vecchia Europa. Quel che più lo tormentava era il pensiero che in quei paesi di religione prevalentemente musulmana la rivelazione non fosse stata trasmessa e vista dalla stragrande maggioranza delle persone, come invece era accaduto in Italia e nel mondo occidentale. Aveva quindi portato con sé il Devil e stava già pianificando il modo più efficace di servirsene nel caso ce ne fosse stato bisogno. Aveva dato istruzioni al pilota di atterrare in Libia, il posto più diverso ma uno dei più vicini a casa. Mirko, splendidamente sprofondato in una delle morbide e lussuose poltrone di pelle all'interno del Loker, sognava bellezze esotiche dalla pelle ambrata. Ammirava le nuvole dorate dal sole del tramonto scorrere sotto di lui e non riusciva a credere che, ancora poche settimane prima, lui e Drago erano solo due poveri ragazzi sfigati di una qualsiasi sfigata e puzzosa città di provincia. A bordo della jeep che dall'aeroporto li portava verso la città di Tripoli si coglievano odori mediterranei familiari e pungenti inconsueti aromi nuovi. Le bianche basse nuvole si stagliavano nitidamente sullo sfondo del cielo di un tono di azzurro insolito per loro. Erano stati fortunati. Il primo tassista a cui si rivolsero aveva evidentemente subito l'effetto God. Quando Ocelot si tolse il camuffamento, fu interessante constatare gli effetti che aveva avuto il Devil. La prima reazione che ebbe il tassista appena riconobbe il dio fu quella di salmodiare come un forsennato, prostrandosi a terra e allungando le braccia fino a toccare con ogni centimetro del corpo la rossa polvere della strada. Sembrava che si volesse fondere con ogni granello di sabbia e sprofondare nel sottosuolo cantilenando con passione parole incomprensibili. Mirko e Drago non capivano una parola di quello che l'individuo diceva, neanche quando il poveretto tentò di esprimersi in un inglese che poco aveva a che fare con quello che entrambi avevano studiato. In compenso, la funzione d'onda aveva reso intellegibile al tassista i desideri di quel dio, inaspettato e alieno, arrivato da chissà dove. Drago ebbe il suo bel da fare anche nelle vesti di dio a farlo rialzare e fargli prendere posto alla guida della macchina. Gli ordinò di accompagnarli al mercato, sarebbe stato l'osservatorio da cui avrebbero spiato la gente. «E adesso andiamo a vedere un po' di fauna locale», sghignazzò intabarrandosi nell'ampia cappa. Nonostante prima di allora nessuno dei due fosse mai stato in un souk, ne avevano un'idea ben precisa: polvere, sudore, confusione, odori, urla di venditori e acquirenti. Riviera aveva insistito affinché trovassero il modo di passare inosservati, cosa peraltro difficile considerando il loro abbigliamento e le fattezze indubitabilmente occidentali. Ricorsero al più vecchio e trito trucco di ogni film di serie B che si rispetti, due tuniche bianche che li ricoprivano da capo a piedi, complete di kefia che si drappeggiarono intorno al viso. Nessuno avrebbe potuto pensare che sotto quelle tuniche giravano in incognito Dio e il suo arcangelo. «A me sembra un comune mercato da terzo mondo, non vedo niente di strano qui». Mirko gettava qua e là occhiate casuali fra i banchi ricoperti di pesci di ogni colore che ancora guizzavano e boccheggiavano. Il solito spettacolo dell'orrore ittico che era sempre uguale in ogni parte del mondo. Drago, dallo sguardo più consapevole e attento, aveva già colto invece qualche segno di novità. «Guarda lì, socio, vedi quella donna che si è fermata?» indicò un banco poco lontano. «Sì, e allora? Sta comprando del pesce, mi sembra. Aspetta, voglio capire se ho visto giusto». Dopo che la donna ebbe scambiato alcune parole incomprensibili con il venditore, la videro infilare alcuni grandi pesci in una sporta e allontanarsi tranquilla. «Drago, non capisco. Che cosa c'è di strano? Una che compra il pesce se ne va a cucinarlo?» Drago non rispose. Continuò a camminare osservando venditori e acquirenti. Mirko lo seguiva sconcertato. Entrarono in un corridoio formato da bianchi archi. Ai lati vi erano ogni sorta di mercanzie. Tappeti, mezzelune decorative in ottone, narghilè, piatti decorati. Il corridoio era lungo e si perdeva nell'oscurità. Era percorso da decine di clienti, curiosi, garzoni che si affaccendavano senza sosta in quella fresca oscurità polverosa. «Osserva, socio, voglio che tu te ne renda conto da solo». Drago guardava Mirko con un risolino enigmatico. Lo sfidava a trovare il segno della rivelazione anche in quel luogo lontano. Le grida dei ragazzini che correvano per ogni dove si mischiavano a quelle dei venditori e dei muezzin che avevano iniziato ad intonare le preghiere del mattino. L'odore dei vecchi corridoi mischiato alle spezie sui banconi creava fiumi di aromi senza tempo. Riviera cominciava a sentirsi frastornato dal bombardamento di sensazioni nuove. Lo sguardo gli si posò su un venditore di acqua che camminava fra la folla. Prima di allora aveva visto quella caratteristica figura medio orientale solo nei documentari che il suo vecchio amico nero amava guardare la sera in TV, specialmente dopo una bella fumata propiziatoria. Era un personaggio semplice e umile, ma portava con sé caratteristiche quasi mistiche e misteriose. Gli sembrava di ricordarsi che alcune cosiddette profezie lo descrivessero come figura chiave di un importante evento decisivo per le sorti del mondo. Il venditore portava con sé un odre di pelle dal quale versava l'acqua in delle ciotole metalliche che porgeva poi ai clienti. Mirko lo seguiva con lo sguardo. Era ipnotizzato dal tintinnio delle ciotole e dal riverbero della luce che rendeva l'acqua brillante come argento. Si scosse all'improvviso ed esclamò: «Ah, sì, ho capito, ma certo, guardalo, era così semplice che non riuscivo ad arrivarci. Nessuno lo paga, non si fa pagare, come il pescivendolo di prima. E quando mai un venditore non si fa pagare, specialmente qui?» Ozelot lo guardò compiaciuto. «Hai visto? Nessuno contratta i prezzi, nessuno tira fuori una moneta. La gente chiede quello di cui ha bisogno e basta.» «Commovente, già. Drago, quasi mi viene la nausea. Dov'è il divertimento? L'ira divina, la punizione e il castigo. Dove sono la passione e la lotta? Non so. Mi aspettavo più azione, più vita. Roma era meglio.» Ozelot ridacchiò. «Mi hai tolto le parole di bocca», disse, e con un rapido gesto si liberò il viso dalla kefia. La confusione nel souk aumentò rapidamente fino a raggiungere in pochi secondi una situazione di caos totale. La parte di persone che erano state raggiunte dall'effetto God ebbero la stessa reazione chiassosa che aveva avuto poco prima l'autista del taxi. Si gettarono a terra cantilenando in un'esaltazione mistica che fece indietreggiare Mirko dietro le spalle del dio appena rivelatosi. Quelli che invece non avevano evidentemente assistito alla rivelazione, dopo un attimo di perplessità, iniziarono a inveire contro quella strana coppia di occidentali che erano il centro dell'attenzione di tutti i preganti. Drago osservava la scena con apprensione. I timori che aveva avuto erano fondati. L'esaltazione religiosa che li circondava era ben diversa dal senso mistico a cui erano abituati. Qui la violenza delle emozioni era tangibile, sia in coloro che li adoravano che in quelli che avevano iniziato ad avvicinarsi minacciosi, urlando parole incomprensibili. Una grossa pietra scagliata da qualcuno nella folla sibilò molto vicino alla testa di Drago, che subito fece un cenno a Riviera e tirò fuori dalla tasca la versione portatile del Devil. Con un rapido gesto della mano alzò il volume del congegno al massimo e, alzatolo sopra la propria testa, urlò: «In ginocchio, ora!» La scena si congelò in un istante. Ora negli occhi di coloro che fino a un attimo prima li stavano per attaccare era apparso il terrore. Alcuni crollarono sulle proprie ginocchia come marionette rimaste improvvisamente senza burattinaio. Si udì il suono delle rotule che cozzavano sul pavimento mentre le grida si spegnevano in esclamazioni di sorpresa. «Cazzo, questa volta stavamo per vedercela brutta!» esclamò Riviera. «Ho sbagliato a valutare la situazione», ribatté Drago. «Sono stato troppo precipitoso. Dovevo osservare meglio, più a lungo. Non ripeterò questo errore. D'ora in poi non daremo più niente per scontato. Che ti dicevo? Non siamo più alla Resi.» Guardarono il tappeto di schiene e dei retani tremanti. Ozelot, sempre più cupo e silenzioso, con un moto di stizza fece cenno al tassista di seguirli. «Non va, cazzo, così proprio non ci siamo. Ma li hai visti? Come selvaggi! Mirko, quelli ci avrebbero fatto la pelle senza pensarci due volte. Non posso mica goddarli uno per uno, mica posso perdere tempo con questi stronzi. Ho un mondo da mandare avanti, io. Fanculo. Questa cosa finirà domenica prossima, cazzo se finirà. Basta, andiamocene da questo posto di merda, ho visto abbastanza, si torna a casa. Ora so cosa fare.» Riviera non aveva mai visto l'amico così sconvolto prima d'allora, nemmeno davanti alle scene raccapriccianti nelle strade di Roma. Questo, se possibile, lo spaventò ancora di più che il tentativo di omicidio appena subito. Il ritorno a casa avvenne in un'atmosfera tesa e muta. Ozelot non fece altro che guardare fuori dal finestrino durante tutto il viaggio. Mirko si rigirava inutilmente nelle comode poltrone cercando di dormire un po', ma non appena chiudeva gli occhi rivedeva davanti a sé la folla urlante. Udiva ancora le grida minacciose dirette verso di loro e nel dormiveglia sussultava quando nella sua mente qualcuno muoveva un passo nella loro direzione. Neanche sapere che si erano lasciati tutto migliaia di chilometri sotto di loro lo faceva sentire più tranquillo. «Drago, Prendiamoci qualche giorno per meditare e capire meglio la situazione. Vorrei passare un po' di tempo a esplorare la nuova casa. Ho bisogno di distrarmi e ricaricarmi. Io invece avrei bisogno di... Lasciamo perdere, sì, hai ragione. Una pausa farà bene anche a me. E quell'idea che avevi avuto poco prima di partire non era poi così sbagliata. L'atmosfera cupa si sciolse in un sorriso mentre le familiari coste italiane scorrevano sotto di loro. Hai notato che gli individui lasciati vivere in gruppi omogenei sviluppano spiacevoli tendenze a fare massa? Ti sei accorto di che atmosfera diversa abbiamo trovato tra i selvaggi? È un po' quello che succede in Italia con la mafia, la camorra e via dicendo. Capita in tutto il mondo. Si formano clan più o meno chiusi che difendono i loro propri particolari interessi a scapito del resto del genere umano. L'imbarbarimento inizia così. È lo stesso nauseabondo malinteso concetto della famiglia, noi contro tutti. E se questo comporta che la famiglia sia un luogo di sopraffazione, di meschinità, chi se ne frega? Erano entrambi spaparanzati sui divani che avevano fatto portare nella stanza della segnatura. Dopo varie ricognizioni nei palazzi apostolici, avevano deciso che i musei vaticani erano l'ambiente dove si sentivano più a loro agio. La stanza della segnatura in particolare li affascinava con i suoi affreschi. Era come stare fra le pagine di un enorme giornale a fumetti. Mirko lanciava una palla da tennis contro l'effigie di Aristotele per poi riacchiapparla al volo. Non aveva mai potuto soffrire il filosofo e la sua sopravvalutata dottrina che aveva inchiodato ai suoi dogmi l'umanità per secoli. Drago, mani incrociate dietro la nuca, fissava l'immagine di Ipazia desiderando vendicare lei e tutti gli altri martiri dell'ottusità e violenza della Chiesa. Ignoranza chiama ignoranza, seguitò Drago, e l'ignoranza diventa persino un pregio, perché viene sentita come un vincolo di appartenenza. Le società chiuse tendono ad autoaffermarsi a scapito delle menti più aperte. Ecco come nascono le mafie e le mentalità mafiose. Sono solo dei sottosviluppati mentali, ma in grado di sopraffare i gruppi meno organizzati. Un po' come noi alla Resi, allora, disse Mirko lanciando con notevole abilità la pallina sul pavimento per farla poi rimbalzare sul muro antistante e afferrandola a mezz'aria. Anche noi ci isolavamo dal resto del mondo. Sì, certo, anche noi. Per difenderci dal muro di merda che ci trovavamo di fronte, abbiamo formato la nostra piccola cupola, con la differenza che il nostro non era istinto di sopraffazione, ma di sopravvivenza. Noi volevamo solo essere lasciati in pace. E tu li hai goddati. Mirko lo disse a bassa voce, ma l'effetto che la frase ebbe nell'immensa sala fu quello di sopraffare per un istante ogni altro pensiero e considerazione. Drago si alzò e iniziò a camminare seguendo le spirali dei mosaici sul pavimento della sala. Ho sbagliato, anzi ho fatto un'enorme cazzata, sì, ma non per questo rinnego tutto il resto, vorrei proprio vedere cosa avresti fatto tu al mio posto. Mirko si strinse nelle spalle. Guarda che non ti stavo accusando, ho solo constatato quello che è successo, in fondo c'ero anch'io con te quando li usavamo come cavie. Drago sorrise una smorfia. Già. Comunque il punto è un altro. Quello che ci è successo fra i selvaggi è illuminante. Eravamo due corpi estranei e solo per questo motivo degni di essere attaccati e distrutti. Ci temevano, volevano eliminare la dissonanza che noi rappresentavamo. Ora, che ne diresti se eliminassimo noi tutte le dissonanze? Non omologando il genere umano, ma al contrario esaltando le particolarità e le differenze, portando all'estremo la varietà, mescolando e contrapponendo i contrasti, un po' quello che fece la musica dodecafonica con l'arte classica. Eliminiamo i ghetti, inglobiamo le dissonanze in una nuova armonia. Dobbiamo costruire la nuova teoria musicale. Questo è quello che dirai domani alla riunione della domenica? Questo è quello che ordinerò domani a quel branco di teste di cazzo che ha governato il mondo fino a ieri. Aspetta e vedrai, socio, aspetta e vedrai.